Frank, triplo in sette, Yakuza, Shabola in mano, Roma in mano, Tony Balboa, chiamami il capitano. Fumer banche quando dormo dall'angolo, io non mi sposto. Soldi nelle tasche, ogni giorno mi sorto, mi raddoppio, poi mi sdoppio con le guardie, non mi prendono mai. Storie veloci, Speedy Gonzales, fanculo, chi parla e non sa, mai parlato in questura. Fumo erba da quando giocava a Batistuta. Arrivo carico, mica che sto sotto effetto d'acido. Porta rispetto ogni volta che vengo, me te immagino. La fascia che metti dopo che io te metto all'angolo. Riesco a cambiarti con lo sguardo il tuo stato d'animo. E se un giorno salgo sul palco col branco, non conviene sfidarmi, è sicuro che ti spacco. Tutto quanto e poi peso tutto quanto al dettaglio. E quel dito secco che hai puntato te lo squaglio per venderlo, ma alla fine di oro non c'è un cazzo. Tornarci nei monti come quando ero un bravo ragazzo. Madoni, dentro al colle occhio mi fumavo l'oppio, lo steccavo un po' con tutti, beh mi pare ovvio. Tranne con la gente che odio, come quelli che stanno attenti a mangiare. Io quando mangio mi sporco, so legge la faccia da quando ero nella pancia. Pensi vengo dal Marocco, perché io non fumo il fumo sporco. Vai bro, fammene mettere una.